allora eccoci per una nuova puntata di Entropia Massima. Siamo con Alberto a parlare di economia e ambiente per una puntata che legherà argomenti apparentemente distanti e scollegati, ma invece legati da un filo conduttore ben preciso. Bene, allora partiamo subito con una denuncia. Questa volta ne abbiamo già parlato di questo tema, devo dire, però l'organismo che lancia l'allarme è particolarmente importante e particolarmente qualificato per fare questo, e dice delle cose molto pesanti. Allora, il 5 rapporti appena pubblicati dalla piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, IPBES, che dice la situazione è allarmante e richiede una risposta urgente. Insomma, più chiaro di così, allora, peggioramento della qualità del suolo, rapido declino delle specie rappresentano una grave minaccia al benessere umano e alla stabilità delle società. La natura offre all'umanità servizi indispensabili per il funzionamento della vita, dell'economia e il mantenimento della vita. Però, e quindi, impollinazione delle colture, disponibilità di acqua dolce, fertilità delle terre, protezione dalle inondazioni e dalle precipitazioni estreme, produttività degli oceani, la biodiversità è fondamentale non solo per la nostra sopravvivenza, ma anche per la nostra cultura e identità. E qual è il problema? Il problema è che i dati, quindi vengono, questo è un testo molto rapido, bisognerebbe studiare i 5 rapporti. Il problema è che, per esempio, in Francia il Centro Nazionale di Ricerca Scientifica ha pubblicato cifre agghiaccianti. Negli ultimi 15 anni dalle campagne francesi è scomparso il 30% degli uccelli a causa dell'agricoltura intensiva, quindi dei pesticidi e di tutti gli altri prodotti chimici. È solo la parte più visibile di un profondo degrado degli ecosistemi terrestri, di cui il declino degli insetti, quasi dell'80% in Europa negli ultimi 30 anni, è un altro segnale allarmante. La morte dell'ultimo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è il simbolo della capacità umana di annientare una specie. E noi abbiamo già ricordato varie volte che scompaiono 2 specie animali al giorno da parecchi anni. Ecco, quindi anche questo organismo si allinea a tutti gli altri scientifici che denunciano, dicono, eccetera, e poi non possiamo aggiungere a questo allarme delle risposte orientate, che si tratterebbe di modificare l'agricoltura, cioè modificare l'ambiente in senso lato, cioè l'atmosfera, eccetera. Ancora non ci sono segnali chiari. E questa denuncia, questo rapporto parlava dell'ultimo gigante che in Sudan è morto, questo rinoceronte, ho davanti la foto, povera bestia, che amava il fango e le coccole, dice il giornalista, no? È un bestione mostruoso, grandissimo, ed è però era l'ultimo maschio rimasto. Ci sono altri 2 esemplari della stessa varietà, della stessa specie, però sono 2 femmine. Quello che hanno fatto è stato salvare la sua eredità genetica, nel senso che abbiamo delle fialette in cui si potrebbero eventualmente inseminare altri rinocerontesse, qualora anche se siano sopravvissute. Cioè stiamo a livelli proprio paurosi, no? E questo è chiaramente un episodio, però è una specie che appunto così improvvisamente scompare e non conta più. Subito dopo un'altra notizia, 150 balene si sono spiaggiate 300 chilometri a sud della città di Perth in Australia. Gli operatori dei servizi o parchi sono riusciti a salvarne 15 esemplari. E ancora una volta la foto è angosciante, perché queste immensi pesci, perciò cetacei, e ancora una volta non si sa, o comunque non è stata ipotizzata subito, quale poteva essere l'origine, cioè se sono, diciamo, delle origini interne a questi organismi, oppure se sono interventi esterni tipo i sonar o altre tecnologie che possono incidere sul senso dell'orientamento e quindi sul fatto che questi animali si arenano e poi è difficilissimo che riescano a riprendere il mare e quindi muoiono. Ecco, questo sono solo tre indicatori, tre indicazioni, però potremmo vedere anche altri elementi. Però la parte che mi interessa sottolineare è un discorso di carattere più generale, cioè si parla di come ridurre lo smog. Quindi questo è un discorso, questa è un'altra ricerca, quindi dietro c'è il solito gruppo di scienziati, eccetera, e questi scienziati dicono, hanno fatto un po' di calcoli, se noi riducessimo lo smog, quindi quando si parla di smog è l'inquinamento dell'atmosfera sopra le città, diciamo, intorno alle città, in 154 aree urbane, quindi hanno fatto i calcoli prendendo i dati città per città, noi potremmo evitare 153 milioni di morti entro la fine del secolo. Quindi significa che se non facciamo niente, da adesso alla fine del secolo, vedremo 153 morti premature, vengono chiamate così, derivanti soltanto quelle derivanti dall'inquinamento dell'aria nei centri urbani. Quindi significa l'eccessivo addensamento da un lato, il tipo di fabbriche, il tipo di riscaldamento, tutto il traffico urbano, tutte le cose che sappiamo, perché poi ognuno di noi basta che esca la mattina, insomma, ci si trova immerso. Però le cifre sono paurose, cioè queste cifre sono superiori a qualunque altro evento, dalle guerre a alcune malattie gravissime, anche se proiettate in un periodo apparentemente lontano. Perché il discorso è, bisognerebbe intervenire, ma subito, perché non è che si può aspettare la fine e poi comincia, cioè no, cioè il discorso è che l'incidenza dovrebbe essere ridotta immediatamente per poter cominciare a ridurre il numero delle morti che intanto continueranno a verificarsi. Ecco, questo era per dare un'indicazione complessiva. Poi ancora un'altra notiziola, ma apparentemente banale, cioè si parla di plastica nelle acque minerali, quindi nelle bottiglie tappate. Il problema grosso è che molte volte questo di cui parla questo piccolo articolo è che hanno cominciato a trovare in una serie di paesi, in una serie di marchi diversi, cioè insomma una ricerca abbastanza ampia, hanno trovato un tipo di bus di plastica, cioè il polipropilene, che sta nei tappi delle bottiglie. Quindi in sostanza è una specie di inquinamento mirato sul piano industriale, nel senso che non è stato tenuto conto del fatto che si possono staccare parti di plastica dai tappi. Quindi è un'ulteriore denuncia rispetto a quello di cui abbiamo parlato tante volte, di ftalati, le bottiglie lasciate all'aria aperta, insomma, cioè tutti gli altri fenomeni che conosciamo. Qua tutte acque che vengono pubblicizzate come estremamente pure, estremamente sane, sorgenti di alta montagna, eccetera, eccetera, eccetera, l'acqua degli sportivi, insomma, ci vengono dette tutte queste belle cose. Appena si fa una ricerchina mirata, come in questo caso, c'è un problema. E indipendente, vorrei sottolineare sempre il discorso che portiamo avanti e ci capita spesso di ricordare, sempre il fatto di chi fa i controlli, chi certo. È che fa questo tipo di ricerche, di controlli. Certo, perché il discorso per queste notiziole ci sono i dati statistici, eccetera, insomma, però è difficile riportarli in radio. Un'altra notizia. Il degrado del suolo. Questo è un altro articolo abbastanza importante, in quale sottolinea enormemente, cioè sottolinea con estrema precisione, il discorso che il suolo continua a degradarsi, a essere degradato. E quindi questo che cosa significa, cosa comporta? Noi non riusciamo ancora a coglierlo fino in fondo. Un altro elemento sempre del discorso analogo, anche se anche in questo caso può sembrare strano l'accostamento, c'è una indagine che è stata fatta sui pellet, cioè su questo falso legno fatto con i residui degli alberi, del taglio degli alberi. Allora, apparentemente questi prodotti vengono presentati come se fossero una grande soluzione, cioè una maniera di utilizzare i residui, quindi secondo sempre la maniera di presentarlo dal punto di vista industriale, sono alberi già caduti che non incidono, quindi in sostanza non è legno di un albero vivo che è stato tagliato apposta, e quindi insomma sembrerebbero delle cose meravigliose. In realtà non è così. Contro gli sprechi. Contro gli sprechi, insomma, sì, c'è tutta una serie di queste immagini che vengono visitate. In realtà è molto diversa, perché se si fa il conto di quanta CO2 viene consumata da un albero e quanto invece ne assorbe, no? Cioè quando te ne assorbe per consumarla come per la vita dell'albero, e di quando poi ne espelle nel momento in cui viene o bruciato o tagliato o lavorato industrialmente, e allora ci si rende conto che invece quello che apparentemente è uno spreco è il risultato di un meccanismo dannoso. Quindi il problema grosso qual è? E questo si intravede nel testo dell'articolo, e che alcuni paesi hanno deciso che è una materia prima interessantissima e stanno cominciando a esportare, e stanno cominciando soprattutto a esportarla in Europa, il che significa che si sta per aprire un mercato, quindi che non sono più piccoli carichi, esportazioni sporadiche, ma ci sono un gruppo di aziende che sta spingendo per cioè ancora una volta, no? Parte, come dire, un nuovo meccanismo di danno ambientale, no? Che però viene presentato come appunto lotta allo spreco, oppure. Bene, questo era tanto per capirci. Tornando al degrado del suolo in generale, ci sono alcune cifre che varrebbe la pena di segnarsi. Leggo il testo. Il degrado del suolo causato dall'attività umana sta minando il benessere di 3,2 miliardi di esseri umani e potrebbe costringere tra i 50 e i 700 milioni di persone a migrare entro il 2050. Anche qua, derivante dal degrado del suolo, cioè attenzione, non sono né le guerre né le persecuzioni né le, come posso dire, gli stragisti vari, insomma, tanto a seconda Stiamo parlando di un meccanismo puramente materiale, puramente ambientale, e però si parla tra 50 e 700 milioni di persone costrette a muovere. Ecco, è la prima volta che vedo questo dato, e quindi bisognerà studiare, vedere meglio, eccetera. Però, che tanto per ricordarlo, per degrado del suolo si intendono anche varie cose. Si tratta di molte cose. La fonte è quella di prima della piattaforma intergovernativa scientifica, eccetera. E il degrado è tutta, come dire, tutta la perdita di capacità produttiva che c'ha un suolo, quindi dagli animaletti alle sostanze chimiche, quindi l'humus, insomma, cioè il suolo nella sua capacità creativa. Che pensandoci, no? Cioè, si va dalla cosa, diciamo, più forte e più impattante, che ovviamente è la cementificazione. Certo, nel senso, certo. Partendo da sì, quella è proprio la sparizione totale. Sparisce, e anche quella avanza con un a un tasso incredibile. Esatto. E però non solo quello. Però non è solo quella, ma è proprio, per esempio, quest'anno in Italia, quest'estate, abbiamo avuto quasi 2/3 delle attività agricole in fase di siccità, e quel terreno l'anno successivo non produce come l'anno precedente, cioè insomma, soltanto questo, insomma, cioè, è molto semplice. Poi ci stanno i vari meccanismi chimici di interazioni e via dicendo, però insomma il dato di fatto è degrado. Ma degrado però che significa? Che tutta l'organizzazione agricola e sociale che si è creata su questi suoli colpiti dal degrado scompare, cioè si perde la base, no, per la quale si erano alimentati, eccetera. No, poi è un meccanismo incredibile proprio, è un cane che si morde la coda. Nel degrado del suolo poi si perde appunto la capacità, ad esempio, di filtraggio delle, certo, di ripulire l'acqua che va a ricaricare le falde acquifere, si va a perdere la capacità di tenuta, quindi aumenta il rischio idrogeologico, nel senso che ovviamente se il suolo perde la sua tenuta e si trasforma, immaginandolo praticamente, si trasforma proprio in polvere prima della proprio desertificazione. Proprio il suolo che perde appunto humus, sostanza tenuta, ovviamente facilita in caso di grosse piogge, di abbondanti piogge, ovviamente viene tutto dilavato via. Dilavato, cioè, esatto. E quindi insomma, è tutto si interrompe la come posso dire, la funzionalità e la vita, so, poi si potrebbe chiamare così, no? Cioè, sì. Funzionalità ambientale. Funzionalità ambientale a posto dove appoggiamo i piedi, insomma. Esatto. Detto, bene, cioè male, insomma, questo continuiamo quindi a stare. Direi su questa... facciamo una piccola pausa musicale di qualche minuto e torniamo fra pochissimo in voce, riparlando di economia e ambiente. Many starve on some overfeed. Many line of four. The capitalist system in control. We the people united gonna make it fall. It's a must like a fist against them. It's a social living army shooting bam bam bam bam. Unite bam. And fight for your the rights. The race has been a one of us. Coinvolti perché è tutto sbagliato. Se non girano soldi, ogni sogno è schiacciato. È la legge del mercato che livella tutto quanto. È il veleno che ci mette tutti uno contro l'altro. La misura del mondo è l'oro, ma noi no, noi non siamo come loro. Unite and fight for your rights. The race has been a one of us. Unite and fight for your rights. Questa era Unite dei Radici nel Cemento. Ritorniamo in voce Entropia Massima con ambiente e economia e ambiente, e riprendiamo il filo delle notizie scollegate ma collegate. Allora, adesso possiamo passare sempre per accostamenti successivi al discorso dell'acqua. Questi i dati che francamente alcuni erano già noti eccetera, però mi sembra sempre utile ricordare alcune cose. Per esempio nel 2015 il 36% delle condotte, quindi del sistema idrico nazionale, risulta avere un'età compresa fra i 31 e i 50 anni. E il 22% supera i 50 anni. Allora, è chiaro che di fronte a una situazione di questo genere, per esempio, chiedere o imporre degli aumenti delle tariffe è assurdo, no? Perché evidentemente la qualità dell'acqua trasportata ne risente, e soprattutto le interruzioni dei servizi sono molto più frequenti di quanto dovrebbero essere. Però d'altra parte tutto questo sistema dipende, per quanto riguarda l'adduzione e la distribuzione, da quattro imprese, quattro multi-utilities con capitali stranieri, quindi più o meno delle multinazionali, e quindi è uno dei settori sui quali il sistema sociale italiano è più debole, molto condizionato e con pochi margini di manovra. L'altro aspetto, sempre parlando dell'acqua, è la quantità di acqua in bottiglia, cioè il settore delle acque, diciamo, minerali, per come vengono chiamate. E allora vi do qualche dato. Il giro d'affari complessivo del mercato delle acque sono 10 miliardi di euro, però le bottiglie di plastica utilizzate ogni anno in Italia sono 8 miliardi. Dovreste fare uno sforzo di immaginazione per pensare a una piramide fatta da 8 miliardi di bottiglie di plastica, no? Mentre il canone che le aziende che producono l'acqua minerale in bottiglia eccetera versano in media alle regioni un millesimo di euro al litro. Quindi, come capite, stiamo in una situazione pazzesca, no? per cui ovviamente questa notizia è connessa a quella precedente, perché tutti hanno la sensazione in moltissimi paesi l'acqua ancora non viene erogata con continuità, eccetera, cioè, e ovviamente le acque minerali a partire da 25 anni a questa parte hanno, come dire, tratto enormi vantaggi da questa situazione, perché hanno presentato le acque minerali, specie in alcune zone, e noi a Roma non ce ne accorgiamo abbastanza perché insomma c'è l'acqua, però quest'estate scorsa abbiamo avuto anche noi un po' di preoccupazioni, diciamo, no? E però in molti altri paesi, tipo in Sicilia eccetera, ci sono delle ancora razionamenti oppure periodi di acqua sospesa, no? A quel punto le acque minerali hanno campo libero e forti spinte per la moltiplicazione. Bene, andiamo avanti. Adesso c'è una cosa che mi sembra molto importante da sottolineare, che è un saggio molto, molto ampio, sono 7-8 pagine, che è uscito il 6 aprile su Internazionale, e c'è un'analisi che fa il giornalista su due linee di interpretazione, cioè quelli, i profeti e i maghi, cioè i profeti sono quelli, guardate che siamo nei guai, dobbiamo fare qualcosa per sfamare il pianeta, e i maghi che dicono no, tranquilli perché avremo delle tecnologie, ancora non le conosciamo ma le avremo sicuramente, eccetera eccetera. E quindi il giornalista continua, mette in contrapposizione continua anche tutte, quindi i dati sono moltissimi, quindi io qui mi limito soltanto a come dire, accennare la portata del problema. Nel 2050 noi saremo 10 miliardi, 9 miliardi e 8 e 9 a seconda delle stime. Però le risorse, questa è l'affermazione di Verdina, le risorse saranno le stesse di oggi. Cioè 3 miliardi di persone in più e le stesse risorse. Allora, questo dato dovrebbe turbare i sonni di tutti, nel senso che perché è un dato sconvolgente. E finora, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'agricoltura ha avuto degli aumenti di incremento dei rendimenti dei suoli, eccetera. Però contemporaneamente abbiamo scoperto, con un ritardo di altri 20-30 anni, che ognuno di questi incrementi veniva pagato con distruzioni del suolo, disastri, impoverimento del suolo, dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera. Più tutti gli inquinamenti derivanti da prodotti chimici, eccetera. Quindi è impensabile in realtà prevedere intanto degli aumenti, degli incrementi di rendimento molto molto superiori a quelli ai quali siamo stati abituati negli ultimi decenni, e non senza preoccuparci quali sarebbe il costo dal punto di vista, appunto, diciamo, dell'inquinamento, dei danni al pianeta in generale, perché sono meccanismi complessi. Allora, questo resta aperto, questo problema, cioè nessuno se ne sta occupando. Quelli che cominciano a preoccuparsene sono paesi come la Cina, che come tutta soluzione hanno trovato quella di comprare dei terreni in paesi africani, no? E prevedere che quelle, diciamo, i prodotti di quei terreni vadano in Cina, ma anche lì stiamo parlando di 1.300.000 persone, e poi significa prendere, non so, pomodori o manioca o qualunque altra cosa e portarla dall'altra parte del pianeta. Quindi disastro, cioè non esistono delle soluzioni al momento, non c'è nessuna delle politiche che si stanno, tutte le politiche che sono state fatte per cercare, per esempio, di ridurre la fame, cioè, a tutt'oggi, quindi dopo più di 50 anni dagli obiettivi famosi dell'ONU eccetera, non sono mica diminuiti. Quindi noi abbiamo delle sacche di mancanza di alimentazione, quindi di risorse, e queste risorse che non stanno aumentando ma anzi tendenzialmente stanno diminuendo, mentre la popolazione prosegue imperterrita ad aumentare. Ecco, quindi nel giro dei 30 anni è difficile prevedere che queste cifre cambino radicalmente, cioè neanche, adesso non voglio dirlo perché se non lo fanno, però neanche con una estesa guerra nucleare ci sarebbe la possibilità di risolvere questo problema, però i terreni colpiti dalle bombe nucleari sarebbero a loro volta una diminuzione dei terreni disponibili e via dicendo. Allora, questo è il problema. Io non penso di poter dare altri dati perché è tutto un discorso che viene fatto, ripeto, in maniera molto articolata e contrapponendo continuamente queste due diciamo visioni o queste due con i nomi degli esperti, nomi, è molto interessante proprio perché, come posso dire, è pacato, no? Cioè non è una denuncia roboante, cioè parole, diciamo, contributo per contributo, e mettono a punto questi che sono i problemi prossimi. E questa è la prospettiva. Andiamo avanti. Come vedete, la situazione sono sempre tutti problemini che si incastrano l'uno dentro l'altro. Gli insetti. Allora, questo devo parlarne, mi dà un po' fastidio, c'ho un po' di sensazioni dispiaciuti. Ho trovato ce ne sono stati diversi negli ultimi, li ho messi da parte, ce ne sono diversi di articoli, però questo sono una paginetta e mezza. Ed è molto interessante perché, devo dire, è molto oggettivo, molto tranquillo, no? E dice, intanto ci sono già oggi circa 2 miliardi di persone che mangiano insetti. Allora, questo è un qualcosa che alla cultura media diffusa italiana, abituata alla pasta asciutta, alla polenta, non, come dire, gli sfugge completamente, no? Fermo restando, dall'altra parte sottolinea, in questo in maniera molto, molto specifica, è un po' difficile da citare in radio, però sottolinea il fatto che questo fatto dell'orrore, cioè il fatto del rifiuto dell'idea di mangiare questi animaletti, è in realtà una educazione. Ma si deve intervenire nella... È un fatto di educazione, cioè un fatto sociale, nel senso che ci sono delle cose che noi già facciamo noi nella nostra cultura, nelle nostre città. Chi non ha mangiato delle lumache, no? A Roma c'è la festa di San Giovanni, ci sono i cesti pieni di lumache, no? Però quelli sono appunto degli insetti che alla media della popolazione italiana del centro Italia sembra un qualcosa di abbastanza spiacevole. E allora abbiamo una telefonata per Alberto. Ciao. Ci senti? Sì. Pronto? Sì. Ciao, mi sentite? Sì. Ciao, buona serata, sono Alfredo e almeno così mi presento. Insomma, aspetta, niente. Scusa un secondo che non sentiamo. Sì. Pronto, pronto? 1, 2, 3? Sì, eccoci. Mi senti? Non ti sente Alberto, eccolo. Ti sente? Mi sente? Ti sente. Sì. Sì. Ok, eccolo. Ciao, buonasera Alberto, sono Alfredo. Sì, dimmi. Sì, ciao, niente, volevo soltanto dirti una cosa, che ovviamente, come dire, abbiamo misurato queste cose, anche io, insomma, che nel mio piccolo, nell'ecosistema in cui abito, zona Tor Vergata, ho assistito, come dire, alla scomparsa di intere specie di volatili, mammiferi, insetti, cioè sì. Proprio l'elenco che ho fatto nonostante la mia incompetenza, insomma, è terribile. E quindi è vero, però ti volevo dire una cosa, che come dire, nulla di personale, ma questo già è stato, come dire, materia di 40 anni fa dello studio del Club di Roma, che poi fu pubblicato nei limiti dello sviluppo e quindi sì, con sì. L'eccessiva certo. Demografia certo. E con l'edizione successiva, quindi, come dire, non ci stiamo dicendo nulla di nuovo, anche loro, anche questo studio, come dire, a mio parere altamente scientifico, perché è fondato su modelli rigorosi di studio per quanto riguarda le risorse, l'esaurimento delle stesse, l'impronta umana, l'impronta ecologica, no? Loro hanno fondato, hanno anche battezzato alcuni termini che poi dopo sono stati usati, cioè era chiaro già 40-50 anni fa che la demografia umana avrebbe spazzato via interi ecosistemi, specie animali e così via. Ora, tu ci hai riassunto in questo breve spazio della trasmissione quello che però molti di noi già sapevano. Il problema è che purtroppo, come dire, i loro modelli, parlo del Club di Roma, insomma, di quello che erano uscito fuori, davano la catastrofe per certa. E quindi, solo che però dopo tanti anni la speranza è che a un certo punto gli studi avessero avuto, come dire, la possibilità di riuscire a trovare, non dico un escamotage, che sarebbe strano, insomma, ma almeno una possibilità di uscita e dirla in maniera chiara. Loro la dissero, cioè bisogna ridurre fortemente la popolazione umana. Tu l'hai detto, l'hai accennato, hai detto una guerra nucleare che spazzi via una parte consistente della popolazione, però a tuo parere, come uomo di scienza e come umanista, insomma, poi definisci di tu, io non ti conosco personalmente, non ti so definire. Non c'è problema. Ok, non voglio neanche definirti. A tuo parere vi è una possibilità morbida, di rientro morbido, che partendo da oggi, perché da ieri non è possibile, in cui poter riuscire ad evitare la catastrofe, almeno contenerla in, non lo so, poi stabiliamo quanto tempo ci vorrà, 30, 40, 100 anni, 300 anni, non lo so, però insomma c'è questa possibilità. Ciao a tutti, grazie, ciao. Bene, allora devo rispondere subito, no? Nel senso che intanto ci sono delle cose che purtroppo devo precisare e spero che Alfredo non me ne vorrà, però il discorso del Club di Roma dell'epoca non diceva così esplicitamente il fatto che bisognava ridurre la popolazione, cioè non era quello che gli scienziati chiamano, non era malthusiano a questo punto, diceva soltanto che questi squilibri erano destinati a continuare, eccetera. Poi, altro punto che purtroppo devo far emergere, devo precisare, dal momento, diciamo dal 72 in poi, queste cose sono diventate sempre più chiare, cioè le difficoltà, le perdite, le risorse distrutte, cioè tutto quello di cui abbiamo parlato già anche durante la trasmissione, ma ormai insomma c'è una letteratura ricca. Però a tutt'oggi non sappiamo che cosa si fa e si può fare, cioè sappiamo cosa si dovrebbe fare, però contemporaneamente, allora alla fine della trasmissione volevo parlare di una cosa, l'anticipo adesso, una delle cose che dovrebbero essere fatte scomparire il più rapidamente possibile a partire da subito, quindi non dal 2030 ma da subito, è il carbone. Ecco, c'è un grosso articolo che è uscito ieri mattina che parla della Polonia, dove, che è uno dei più grandi produttori di carbone, miniera a cielo aperto, insomma facciamo qua questo articolo, è un'indagine piuttosto seria, è una situazione allucinante, cioè producono quantità di carbone pazzesche. E quindi hanno il 60-70% dell'energia nazionale prodotta da impianti a carbone, quindi hanno la materia prima e gli impianti. Questi stanno continuando ad aprire miniere, anche se fanno parte dell'Unione Europea, si sono impegnati a ridurre eccetera, non è vero, cioè stanno continuando. E questo discorso, se tu guardi l'ENI, no? L'ENI ha fatto delle affermazioni qualche giorno fa, quelle apparse sui giornali, che su 7 miliardi di investimenti 1 miliardo sarà sulle energie alternative, eccetera. Se guardi le pubblicità dell'ENI sembra che siano un organismo verde scatenatissimo, eccetera. Non è vero, cioè continuano a, diciamo, fare le prospezioni, continuano a vendere, a estrarre e a vendere il petrolio, continuano a fare i gasdotti. Cioè la struttura, quella portante, quella di fondo industriale, cioè, è ancora intatta, e soprattutto non emerge nessuna intenzione di volerla realmente modificare. Cioè è un dibattito sociopolitico, chiamalo come ti pare, però la realtà delle scelte non è quella, cioè non abbiamo ancora cominciato. Quindi il piano che è stato approvato nel dicembre del 2015 a Parigi, tutti i paesi si sono impegnati a fare queste riduzioni, eccetera. E la Cina e gli Stati Uniti hanno preso degli impegni dettagliati, eccetera. Sempre però la Cina continua a dire che comincerà a fare le riduzioni a partire dal 2030. Quindi per ancora 10 anni o 15, a seconda dei prodotti, continuerà a inquinare